You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, dilli. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Buona serata da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta a questo appuntamento di Radio 24 per parlare di cucina, identità, ricette, Italia che cambia grazie anche alla presenza di persone con origini straniere che sono nel nostro territorio e che contribuiscono a rinnovarlo. L'Italia che cambia grazie anche alla presenza di stranieri oppure di italiani con origine straniera. Ne parliamo questa sera, ho il piacere di presentarvi già la nostra ospite che è un'italiana di origini tedesche o una tedesca trapiantata a Torino, si chiama Claudia Franzen, buonasera. Buonasera, buonasera. Claudia Franzen è la creatrice, insieme alla sua socia Sabine Schumacher, di un ristorante particolare a Torino. Noi abbiamo deciso di aprire una gastronomia con un piccolo ristoro e alla fine anche il ristorante qui nel centro storico della città. Insomma, invece che essere italiani che vanno in Germania ad aprire la classica pizzeria o ristorante italiano, due tedesche che sono venute in Italia a farci conoscere un po' meglio la cucina tedesca, che forse è poco conosciuta, no, in Italia. 4 anni fa, 5 anni fa, quando abbiamo iniziato con il nostro progetto, allora c'erano 5 ristoranti tedeschi in tutta Italia, prevalentemente però soltanto bavaresi, con la cucina tipica della Bavaria in Germania. Del sud, noi, quindi. Spaziamo un po' tutte le regioni del paese con le nostre ricette. La cucina tedesca non solo è poco conosciuta in Italia, ma è legata a degli stereotipi, no? Di essere, ad esempio, alla fama di essere poco varia, un po' pesante. Invece la cucina tedesca ha molte sfumature che ci aiuterete a conoscere. Noi vi abbiamo chiamate soprattutto perché siete finaliste quest'anno del MoneyGram Award, il premio per l'imprenditoria straniera in Italia nella categoria innovazione. Quindi complimenti per questo vostro successo e complimenti anche per l'idea abbastanza curiosa, anche perché voi due arrivate da esperienze professionali un po' diverse da quelle gastronomiche. Ma io, per dire la verità, sono cuoca di professione, ho fatto tutte le scuole, ma negli anni 80, quando sono arrivata io, non era ancora molto consueto avere delle femmine in cucina e quindi non ho trovato un posto di lavoro, ho fatto ancora dei corsi per diventare sommelier, però alla fine ho optato per fare un altro lavoro, ho fatto la traduttrice per 25 anni, traducendo dall'italiano verso il tedesco, e invece Sabine, la mia amica e socia, è orafa di professione e anche lei ha lavorato come orafa fino a 5 anni fa, finché non abbiamo avviato il nostro progetto. Il nome del ristorante è particolare, no? Sì, è la Deutsche Vita, che è un bel gioco tra il film di Fellini e la nostra realtà. E proprio per dare anche, per creare un omaggio anche al cinema, visto che anche voi ci avete pensato, visto che la nostra trasmissione prende spunto da un film importante della storia del cinema, abbiamo deciso proprio per questa puntata di fare un omaggio a tutti i film che in qualche maniera hanno parlato di cibo, o ad alcuni film che hanno parlato di cibo nella storia del cinema italiano, ma non solo. E allora iniziamo subito a sentire qualcuno di questi estratti, con questo breve estratto di un film che riconoscerete tutti, con la voce inconfondibile di Alberto Sordi. Maccherone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, maccherone. Io me ne magno. Claudia, gli stereotipi insomma ci accomunano un po'. Gli italiani sono visti all'estero come grandi mangiatori di spaghetti, i tedeschi forse non sono più legati a una cucina, agli immancabili würstel, no? E in realtà lei stasera ci porta dei piatti un pochino meno forse popolari e conosciuti in Italia, ma interessantissimi per noi da conoscere. Quali sono? Ma ho pensato per un piatto che piace molto agli italiani, è l'arrosto dell'imperatore, che io propongo con o con gli gnocchi di patate o con i cannederli, che sono sempre gnocchi però di pane, e con i crauti. E l'arrosto è un arrosto di maiale che viene cotto nella birra e nella senape ed è molto gustoso. Ed era il piatto preferito dell'imperatore Lutzig. Adesso sentiamo l'estratto di un altro film. Questa volta parliamo del cinema americano, una scena a tavola fra Ingrid Bergman e Cary Grant. Mangia finché è caldo. Ti aspetto. Mangia, l'educazione rovina le pietanze. L'educazione rovina le pietanze, le fa raffreddare, dice Ingrid Bergman in questa scena di Indiscreto, un film davvero indimenticabile. Claudia, anche il succo di rabarbaro, il succo di ciliegio, visto che sono fra i prodotti che voi mettete a disposizione dei clienti, sono dei prodotti tipici vostri, il rabarbaro e la ciliegia? Sì, da noi si bevono molti succhi di frutta e prevalentemente devo dire però il succo di mela e poi il rabarbaro quando è stagione e certamente anche il succo di ciliegia. È una cosa sulla quale puntate nel nostro menù, stranamente per una persona che non conosce bene la cucina tedesca, sono le insalate. Sì, allora abbiamo una grandissima vetrina con tutte queste insalate, come per esempio la verza rossa con le mele, oppure la verza con lo speck e il comino, oppure un'insalata di sedano con pollo e noci, o un'altra insalata che piace moltissimo è un'insalata di sedano rapa con le mele e le noci. Sentiamo allora, sempre da una scena cinematografica, come si rompe un uovo, Sabrina. Bonjour mesdames et messieurs. Ieri abbiamo appreso il modo giusto per far bollire l'acqua e oggi vedremo qual è il sistema migliore per rompere un uovo. Voilà, un uovo. Un uovo non è di pietra. E non è neppure di legno. È una cosa viva. E quindi rompendolo non dobbiamo straziarlo. Dobbiamo averne pietà e giustiziarlo rapidamente. E questo è il film Sabrina, indimenticabile, con questa lezione di cucina. Nella sua cucina, Claudia, cuochi tutti rigorosamente tedeschi? Sì, sì, la cuoca sono io e ho degli aiuti che aiutano a tagliare la verdura. Che sono tedeschi? Sì, c'è una tedesca, ma ci sono altri stranieri, ho una ragazza rumena, una ragazza polacca, insomma siamo molto multiculturali. Internazionale. Senta, ma in Germania si mangia bene o no? La guida Michelin da pochi anni ha introdotto fra i primi ristoranti stellati anche dei ristoranti quotati tedeschi, quindi insomma la Germania si sta facendo largo anche da questo punto di vista. Sì, ci sono dei cuochi famosi in tutto il mondo, in parte perché sono stati rivisitati delle ricette antiche che oggi si cucinano con degli ingredienti magari un po' più leggeri, tipo, non lo so, lo strutto viene sostituito dall'olio di oliva e altre cose che rendono più, cioè, agevole queste pietanze, che magari si potrebbe più leggere, magari anche sì più digeribili per tutti noi. Mm-hmm. Penso scelte che più leggere, più delicate. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena quel sabato. La suddetta signora Rosa si aggirava per il mercato cercando gli ingredienti per realizzare al meglio l'evento più sacro del rito domenicale, il ragù. Oh no, sì, voglio bene, vado di fretta. Datemi un chilo d'annecchio, un chilo di spezzatini, amoncello, tracchi e locine, punte natiche, petto le spalle, due nervi, fianchette e corazza. Ecco, padosta, e fu una volta una grazia, due cervellatine, ecco il ragù che bene. Ah, oh, no. Maronna. E ci pelate l'indorrao! Che luce! Che fa? Ci stanno benissimo! Anzi, se insieme all'annecchia ci mettete un po' di prosciutto di maiale imbottito! E questa era una scena di sabato, domenica e lunedì con l'inconfondibile voce di Sofia Loren. Siamo questa sera in compagnia di una chef tedesca, Claudia Franzen, che insieme alla socia, sempre tedesca, ha creato a Torino, ha dato vita a un ristorante di cucina tedesca, Deutsche Vita, e per questo anche questa sera abbiamo deciso di fare degli omaggi al cinema, che un po' come avete fatto voi, no Claudia, con questo nome particolare del vostro ristorante che riecheggia un film di Fellini, a tutto quel cinema che parla di cucina. Ma fra i vostri clienti ci sono italiani oppure anche tedeschi? La comunità tedesca torinese è di circa 4.000 persone, ho letto, quindi insomma anche la comunità tedesca torinese avrà trovato un punto di incontro lì nel vostro ristorante. Naturalmente, prevalentemente i nostri clienti sono italiani, ci sono molti tedeschi che vengono anche loro, specialmente abbiamo dei clienti che ordinano dei prodotti a loro molto cari, perché noi due volte al mese riceviamo la merce dalla Germania. Ho letto che fate anche un würstel quadrato. Esatto. Sì. Di cosa si tratta? Questo è un würstel che è fatto a forma di panetto. Mm-hmm. È molto fine come impasto e si taglia a fette come se fosse un pane a carré. E poi questa fetta si cuoce alla piastra e poi si fa un uovo al burro e si serve insieme alle patate arrostite e un po' di senape dolce. Sentiamo il passo di un altro importante film dove c'erano dei piatti molto elaborati, molto sofisticati, ed è Il pranzo di Babette. Sentite. Oh, è stato davvero un ottimo pranzo. Ci ricorderemo tutti di questa serata quando sarete tornata a Parigi. Io non tornerò a Parigi. Non tornerete a Parigi? Non ho niente che mi ci faccia tornare. Li ho persi tutti. E non ho più denaro. Niente denaro. E i 10.000 franchi? Li ho spesi. Una scena per 12 al Café Anglais costerebbe 10.000 franchi. Ma cara Babette, non dovevate dar via tutti i vostri averi per amor nostro? No, non era solo per amor vostro. Così ora sarete povera per il resto dei vostri giorni. Un artista non è mai povero. Sono tantissimi i film che in qualche maniera intersecano questo tema, da Pomodori Verdi Fritti alla Fermata del Treno, La Cena di Scola alla Grande Buffata di Ferreri, ne sentiremo qualcuno. Claudia, c'è ai suoi occhi qualcosa comunque che non le piace della cucina tedesca? No, mi piace tutto, adesso questa era una risposta obbligatoria, no. E proprio trovo che sia molto varia e può fare concorrenza alla cucina italiana in certi versi. Lancia questo guanto di sfida. Ma è una sfida, è stata una sfida e fino adesso la reggiamo bene questa sfida. Come è capitata lei in Italia? Perché di solito noi italiani siamo abituati a pensare ai nostri cervelli in fuga. Lei ci raccontava che è nata come chef, ma ha fatto la traduttrice. Perché è arrivata in Italia e quando? Sono arrivata nell'86 e sono arrivata perché mi sono innamorata di un italiano. Sa che le donne si spostano più facilmente degli uomini. E si sente mai straniera qui? La fanno mai sentire straniera? È anche oggetto magari di in qualche maniera un pregiudizio? Ma io sono sempre rimasta la tedesca e questo ha anche tanti vantaggi perché posso spesso dire quello che penso mi viene spesso perdonato qualcosa, quello quando sbaglio qualche cosa che magari non è molto italiano, faccio magari delle gaffe o delle cose così. E poi ci sono dei pregiudizi sui tedeschi anche molto positivi, che siamo ordinati, che siamo puntuali. E non corrispondono alla realtà, secondo lei? Ma io penso che negli anni mio marito è diventato più tedesco e io sono diventata più italiana. Il luogo comune dei patate, krauti e würstel ha accompagnato da sempre l'idea sulla gastronomia tedesca diffusa all'estero. Invece, piatti di ogni genere e gusto, carne e pesce, squisiti prosciutti, le famose salsicce e non ultimi i dolci, caratterizzano ogni regione, ogni provincia della Germania. La cucina del nord è dominata da quanto viene pescato. I pesci del mare del nord sono la base della culinaria di questa zona. Aringhe, anguille affumicate, gamberi, granchi e aragoste la fanno da padrona. Accanto a questi piatti, un piatto tipico è della regione, l'Eintopf. Diversi tipi di carne, verdure e patate bolliti insieme. Nella parte più a nord, ai confini con la Danimarca, ci si è specializzati nella produzione del rum, base per ottimi grog e indispensabile componente delle bevande calde in tutta la regione del nord. Le specialità della cucina dell'ovest della Germania, invece, sono ad esempio il famoso prosciutto della Westfalia, le salsicce di Göttingen, gli asparagi della zona del Reno, oppure la Blutwurst, una saporita salsiccia di Düsseldorf, che deve essere mangiata con una senape molto piccante. Spostandosi a est del paese, i migliori piatti della Sassonia sono il Leipziger Allerei, un piatto squisito di asparagi e altre verdure, e il famoso dolce natalizio, lo Stollen. Da lì vengono anche i Kartoffelpuffer, mentre la specialità di Berlino è l'Eisbein, pezzi di maiale bolliti serviti di solito con i crauti. Berlino è anche la culla dei Krapfen. Se poi si scende a sud, il piatto più popolare della Baviera è l'Aschen, un pezzo di cosciotto di maiale o vitello accompagnato dagli Knödel. Da assaggiare è anche la Weihwurst, la salsiccia bianca di Monaco. Nella zona della Foresta Nera si pescano le migliori trote della Germania. Ma il vanto della zona è la famosa Schwarzwalder Kirschtorte, la torta di ciliegie, gustata magari con un bicchierino di Kirschwasser. Senta, della cucina italiana invece che cosa le piace e che cosa proprio non sopporta? Non saprei adesso cosa non sopporto. Quello, quando sono arrivata qua e quando ho portato le mie figlie all'asilo, lì per la prima volta ho capito l'importanza totale del cibo in Italia o comunque qui in Piemonte, perché ero l'unica mamma che quando veniva a prendere nel pomeriggio le figlie, che chiedeva alle proprie figlie cosa avete fatto oggi, invece tutte le altre mamme hanno chiesto cosa avete mangiato oggi. Questa cosa di... L'affetto che passa anche attraverso il cibo in Italia è molto forte, sì, forse è molto forte, in Germania non è così. Questo atteggiamento, sì. In Italia il bambino ha sempre il pezzo più bello, più buono della torta o dell'arrosto, in Germania no. Per esempio mio padre mi diceva sempre che gli asparagi, le punte erano cattive e quindi io dovevo darli tutti a lui e lui e io potevo mangiare solo il resto. Ecco, queste sono delle differenze che forse oggi anche in Germania sono cambiate. 30 anni fa, 40 anni fa era così e anche io non ho cresciuto le mie file così. Beh, sicuramente i tempi sono cambiati per la Germania, per l'Italia. Infatti sentite un po' questo Totò dannata ai miseria e nobiltà. Se reciterete bene la vostra parte sarete ben ricompensati. Oh, grazie, Marchese. Vorrei dire una cosa, col permesso del Marchese. Noi verremo mangiati prima, ma dico, se casomai ci dovesse venire un pochettino d'appetito, c'è qualche cosa di lì da mettere sotto i denti? E altro che, là c'è tutto. Ah. Brodo. Pasta asciutta. Poi ci sono gli antipasti, caviale, ostriche, filetti di tacchino, filetti di baccalà, omelette di baccalà, poi c'è il dessert, formaggio, tè, caffè. Insomma, venite già mangiati, verremo già mangiati, dice Totò in questo film che appunto racconta un'Italia di qualche anno fa. Lei, Claudia, quando torna in Germania, anche lì si dovrà ribellare agli stereotipi sugli italiani, sull'Italia, no? Immagino. Ma non più, e comunque gli italiani hanno una immagine molto positiva, insomma gli italiani che sono immigrati in Germania negli anni 60 rappresentano una comunità molto forte, prevalentemente si occupano appunto di ristorazione, hanno aperto gelaterie, pizzerie, ristoranti. Diciamo che da quel punto di vista almeno ci siamo fatti conoscere all'estero. Come avete deciso di partecipare a questo premio per l'imprenditoria immigrata in Italia, il MoneyGram Award? Ma l'abbiamo saputo attraverso una nostra amica brasiliana che aveva partecipato l'anno prima, e lei anche lei è diventata finalista, una brasiliana che ha aperto qui a Torino un negozietto che fa cupcake, quelle torte molto vistose, molto colorate, e lei ci ha raccontato di questo, e allora abbiamo pensato, ma perché non partecipare? Arrosto di maiale croccante o Krustenbraten. Ingredienti per 4 persone. 1800 g di spalla di maiale con la cotica, sale e pepe, olio d'oliva, 150 ml di birra Altbier, birra scura di Düsseldorf, un bicchiere d'acqua. Per la salsa, 3 cipolle rosse, 3 carote, un piccolo sedano rapa, un rametto di rosmarino, 200 ml di birra Altbier, un cucchiaio di senape. Preparazione. Incidere a scacchiera la cotica del maiale usando un coltello molto affilato, facendo attenzione a non incidere anche la carne. Salare e pepare abbondantemente l'arrosto, scaldare dell'olio in un tegame capiente, che possa andare anche in forno, e rosolare la carne a fuoco vivo solo sul lato della cotica. Sfumare con la birra e l'acqua. Mettere l'arrosto nel forno preriscaldato a 170 gradi e cuocerlo per circa un'ora finché la cotica non risulterà croccante. Nel frattempo mondare la verdura, tagliarla a pezzetti e condirla con la senape. Aggiungerla all'arrosto e bagnare la cotica con la birra. Far cuocere per almeno un'altra ora. Quando l'arrosto risulterà cotto al punto giusto, passare il sugo di cottura in un colino o, se si preferisce, frullare il sugo con le verdure per ottenere la salsa da servire con l'arrosto. Servire con crauti rossi speziati e canederli. Adesso, prima di chiudere, vi faccio sentire l'estratto di un ultimissimo film in cui si svolge una famosa scena a tavola. Cameriere, prego, senti il signore là. Metto un litro? No, un litro è una pizza. Qua pizza se ne fanno. Come non se ne fanno? Questa è una trattoria, mica una pizzeria. Beh, allora voglio mangiare. Magna? È che non magna. Cosa vuole? Vuoi una mozzarella in carrozza pure te? Sì. Due mozzarella in carrozza e vino subito. Sono contro a miliare. Mo' ci mangiamo queste due mozzarelle e a te ti faccio portare pure il dolce. Sei contento? E questo è il bellissimo film Ladri di biciclette di De Sica. Vi lasciamo con questo ricordo di questo cinema, del grande cinema italiano. Ci sarebbero tantissimi altri film da citare, Chocolat, Ratatouille, nella cinematografia, insomma, la cucina è sempre fonte di ispirazione. Siamo stati felici di avere questa sera con noi una tedesca venuta in Italia per lavorare, ma anche per amore, come ci ha spiegato, Claudia Franzen. Buona serata e grazie per essere stata con noi. con noi. Grazie a voi, mi ha fatto molto piacere. E insomma, tutti gli italiani di passaggio a Torino che vogliono assaggiare cucina tedesca, vi consigliamo il ristorante Deutsche Vita, insomma una dolce vita alla tedesca. Io ringrazio in regia Filippo Aureggi, tutti voi per l'ascolto, vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre sulle frequenze di Radio 24. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. You've got to give a little. That's the glory of love.